You'll listen to oxygen for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is oxygen. Tutti i sabati tutta la notte, dalle 23. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is oxygen. This is oxygen. You're listening to oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is oxygen. Listen to oxygen for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is oxygen. Thank you. You're listening to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Thank you. benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Oxygen, come ogni settimana guidata e condotta dal sottoscritto Amptech. Ho aperto la selezione di questa sera con una novità che proviene da un nome storico della scena elettronica europea, ovvero Uwe Schmidt, che molti conosceranno come Atom TM, ma in realtà ha utilizzato anche altri pseudonimi per le sue innumerevoli realizzazioni. E fa uscire sulle piattaforme questo lunghissimo brano di quasi un'ora che si chiama Rheinmetall, di cui abbiamo ascoltato un estratto. Non so se sia dedicato alla famosa industria bellica tedesca, che è protagonista negli ultimi anni di un grande boom economico, ma andiamo avanti con un altro artista, questa volta statunitense. Si tratta di Aces Tuarasaka, che rilascia un extended play che si chiama Utility, ma anche se ci sembra di capire che a breve sarà disponibile un ulteriore lavoro, altri quattro brani, che si chiamerà Satsuko. Stiamo attendendo quindi la nuova release. Intanto questa, che è uscita da pochissime settimane, si chiama appunto, come vi dicevo, Utility, Aces Tuarasaka. We'll be right back. You listen to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. E questa è sempre Oxygen in voce con voi, c'è Amptech, questo era Access to Arasaka, il suo nuovo extended play intitolato Utility. E ma andiamo avanti con un nome storico della scena elettronica europea, uno di quei progetti che già dall'inizio degli anni 90 hanno dato avvio anche un vero e proprio filone, che è quello dell'ambient house, ovvero The Orb, che tornano con un album che con 10 brani della durata di 1 ora e 17 minuti, uscito il 10 ottobre scorso, si intitola Buddhist Hipsters e vede la presenza anche di molti ospiti, fra i quali cito Steve Village e Miquette Girardi, ex membri del gruppo psichedelico dei Gong nel corso degli anni 70-80 e successivi, e poi fondatori del progetto di Ambient House che si chiama System 7. C'è anche Youth, che aveva collaborato con Yorb già negli anni 90, anzi caratterizzando molto il sound del progetto, e che è stato anche produttore di The Endless River, l'ultimo album in studio dei Pink Floyd, quello strumentale in cui non ci sono praticamente canzoni, è un montaggio, quasi un mix di stralci strumentali. Ma ascoltiamo due estratti da Buddhist Hipster, loro sono The Orb. Thank you. comes up with a further design. Yes. For you see, Satan never gives up. If Satan misses you one way, don't think you have it made. But Satan is coming up with a further design. For your ears, for your heart, for your soul, for your brain, this is Oxygen. Very soon after the launching of the Sputnik in October 1957, both the Americans and the Russians achieved the capability of sending satellites even further into space so that they were no longer in closed orbit around the Earth, but were actually able to reach the moon. Nearly a quarter of a million miles away. The most famous and first of these actually to hit the moon was Lunik 2. Here are the sounds of the historic last moments of this Lunik, recorded in September 1959 at about 10 o'clock British summer time, as it was about to smash itself into pieces on the surface of the moon. Thank you.

e questa è sempre Oxygen. Abbiamo ascoltato due brani dall'ultimo lavoro degli Orb, un lavoro che contiene tracce come quelle che abbiamo appena ascoltato, che sono nel pieno dello spirito degli Orb che conosciamo, che abbiamo conosciuto nel corso della loro carriera, quindi ambientali, con questi inserti rumoristico-vocali concreti che animano questi tappeti e questi groove abbastanza leggeri. Ma nell'album ci sono anche altri tipi di brano, ce ne sono un paio di ispirazione reggae dub e un paio un pochino orientati verso l'house. Ma andiamo avanti con un'altra novità, questa volta viene da un'etichetta anch'essa importantissima per la scena europea, l'etichetta nella quale incide ancora oggi Aphex Twin, incidono gli Autechre, i Boards of Canada, i Plaid, alcune delle figure più centrali della storia elettronica europea. La Warp Records fa uscire questo album di una pianista che si chiama Kelly Moran, un disco decisamente interessante e fuori dagli schemi che questa etichetta normalmente propone. E abbiamo ascoltato il lavoro di Kelly Moran su Warp Records, un disco atipico, abbastanza interessante, perché vede il pianoforte come strumento centrale delle elaborazioni sonore. Ma andiamo avanti con un altro progetto britannico che seguiamo da tempo, che utilizza sonorità e soluzioni compositive abbastanza vintage, legati a un'estetica che ricorda in qualche modo il krautrock o il rock psichedelico degli anni 70. Si tratta di Warrington Rancor New Town Development Plan, mancava il plan, nuovo lavoro extended play abbastanza lungo che si chiama Appendix One. Listen to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you. for your soul. This is Oxygen. Thank you. oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is oxygen. The volume. The volume. The volume.